La morte è sempre stato un argomento caro al mio cuore e per questo per me ha costituito sempre un certo interesse. Per quanto sembra assurdo, è la morte che dà senso alla vita, perché se la nostra esistenza non terminasse vivremmo diversamente. Cercheremmo tutti di appropriarci del maggior quantitativo possibile di terreno per averlo per sempre, vivremmo senza nessuna morale perché tanto non vi sarebbe nessun giudizio. Cercheremmo di non aver figli per non essere troppo numerosi. La benedizione di amministrare dei beni terreni, di vivere con una giusta morale, e quella di aver figli, senza la morte diventa una maledizione. Poiché tutti moriamo, l'argomento della morte, che ci interessi o no, coinvolge ognuno di noi. Così, la cosa più saggia è quella di prepararci a morire nel migliore dei modi. Alcuni, presi dalla paura, preferiscono non pensarci perché è più facile sopportare la morte senza pensarci che pensarci senza avere paura. Ma poiché ad una certa età ci si rende conto che la realtà prima o poi la si deve affrontare, è più sensato scegliere che tipo di morte fare. Forse qualcuno rimarrà stupito all'idea di poter scegliere che tipo di morte fare, perché essa arriva quando vuole, come vuole e sceglie chi vuole. Eppure Dio chiede all'uomo di scegliere. Che genere di morte vuol fare? In effetti la parola di Dio presenta due tipi di morte. Ebrei 10 e 28. Chiunque trasgredisce la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Ebrei 11 e 13. Tutti costoro sono morti nella fede senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedutele da lontano, essi ne furono persuasi e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Dunque, si può morire senza misericordia o nella fede. La scelta di morte che noi dobbiamo fare non è dove né quando, ma in che modo. Nessuno di noi è in grado di scegliere dove morire e quando morire, perché questo è stato già preordinato fino dalla fondazione del mondo, ma noi possiamo scegliere la forma in cui lasciamo questa terra, forma che del resto condiziona anche tutta l'eternità. La misericordia è quel sentimento di compassione per l'infelicità altrui che spinge ad agire per alleviarla, o quel sentimento di pietà che muove a perdonare, oppure ad esistere da una punizione. Di questo atteggiamento tutti abbiamo bisogno, perché tutti manchiamo in molti modi e in molte maniere, soprattutto per quanto riguarda il nostro rapporto con Dio. È perciò normale per dei peccatori come noi avere paura di morire, senza avere avuto misericordia da parte di Dio. Molto probabilmente presentare la divinità dei cristiani come un Dio senza misericordia è andare contro corrente, perché se ci è un messaggio di amore è proprio incarnato nel Dio dei cristiani. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Non vi è messaggio più grande di questo, eppure l'amore di Dio non esclude che egli non usi misericordia verso chi non vuole, riceve il perdono dei suoi peccati. Leggiamo nella lettera agli Ebrei. Chiunque trasgredisce la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Quale peggiore castigo pensate voi merita colui che ha calpestato il Figlio di Dio e ha considerato profano il sangue del patto col quale è stato santificato e ha oltraggiato lo spirito della grazia? Noi infatti conosciamo colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. E altrove, il Signore giudicherà il suo popolo. E cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. Ebrei 10, 28-31. L'autore di questa lettera pone una domanda solenne: se un trasgressore riceve le conseguenze dei suoi errori, cosa possiamo dire di colui che disprezza il sacrificio di Cristo, ritenendolo inutile per lui? Se il colpevole è degno di essere punito, cosa dire di chi non ascolta lo Spirito Santo che lo convince di peccato? Le domande non possono che avere una risposta negativa. Perciò chi rifiuta l'offerta della salvezza non ha altra fine che cadere nelle mani del giudice Dio che, inesorabilmente senza misericordia, cioè senza quell'atteggiamento di pietà che muove a perdonare o desistere da una punizione. Pensiamo che sul suo letto di morte lo scienziato realizza che nonostante abbia il cervello pieno di cognizioni, il suo sapere non gli reca nulla, o che il grande uomo politico abituato a sottomettere la propria volontà Tutto il popolo su quel letto vede svanire tutta la sua autorità. Oppure l'uomo che aveva l'abitudine lo condannerà a disbrigare importanti affari. In questa circostanza si trova ad un tratto senza risorse per l'affare più grande della sua vita. Questo è il vero dramma al quale possiamo andare incontro. Molto di sempre l'autore della lettera agli ebrei nel raccontare come tanti uomini abbiamo vissuto per fede, continua dicendo «Tutti costoro sono morti nella fede senza aver ricevuto le cose promesse, ma, vedutele da lontano, essi ne furono persuasi e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Coloro infatti che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria. E se avessero veramente avuto in mente quella da cui erano usciti, avrebbero avuto il tempo per ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città». Ebrei 1:11-3:16. Coloro che sono morti nella fede erano persone come noi che hanno udito, come noi, una notizia da parte di Dio e vi hanno posto fede. Non hanno visto nulla, non hanno ottenuto le promesse, ma hanno vissuto e terminato la loro esistenza attendendo ciò che a loro era stato promesso. Questa è la vera fede. Morire con la fede non significa neppure fare una bella morte, perché alcuni di coloro che ci hanno preceduto morendo nella fede sono stati distesi sulla ruota e martoriati, non accettando la liberazione, per ottenere una migliore risurrezione. Altri ancora hanno subito schermi e flagelli, e anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, tentati. Morirono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli di pecore e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Ebrei 11:34-37. Come non è possibile programmare la propria morte, non è neppure possibile decidere come morire, soprattutto per chi ha posto fede in Gesù. Ma chi muore nella fede sa che sta per tornare a casa, sa che è giunto il momento dell'incoronazione, il momento di ottenere ciò che per tutta la vita si è aspettato. La morte per il credente è un passo verso il cielo, anziché un passo verso l'ignoto. È una partenza meravigliosa per un nuovo inizio eterno. È la cessazione delle proprie fatiche. Per questo, chi muore nella fede vede la morte come una amica, non come un'avversaria, e considera l'ultimo passo come la più grande liberazione di questa vita. Molti figli di Dio hanno visto morire i loro cari nella fede con una tale serenità, gioia e luminosità da fare invidia. Alcuni di essi hanno allungato le braccia come per essere afferrati da Cristo. Morire nella fede è l'ultima esperienza per chi ha vissuto ogni giorno per Cristo. Se morire è un obbligo, se è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta e dopo ciò viene il giudizio, allora la pazzia più grande che un uomo possa commettere è quella di non prepararsi non solo alla morte, ma anche al modo in cui deve morire. Se non si prepara alla morte, comunque sia, muore lo stesso, e se non si prepara al modo in cui deve morire ne subirà le conseguenze. In un trafiletto di cronaca c'era il racconto di una donna rimasta prigioniera nei piani superiori di uno stabile mentre divampava un incendio. Questa rifiutò di abbandonare la sua borsa per afferrare la corda appesa al tetto per mezzo della quale avrebbe potuto scendere. Per lei quella borsa costituiva la cosa più preziosa della sua stessa vita. Tuttavia non portò con sé nulla del contenuto della borsa, né fu in grado di servirsene per comprare un posto in cielo. E proprio una pazzia. Valorizzare i beni terreni più di quelli celesti, perché come non abbiamo portato nulla in questo mondo, così non porteremo nulla all'aldilà. Non è stolto allora chi dà a Dio quello che non può trattenere per guadagnare quello che non può perdere. Però, dobbiamo anche aggiungere, non è del tutto esatto dire che non abbiamo portato nulla in questo mondo e così non ne porteremo nulla nell'aldilà. Perché vi sono cose che noi porteremo con noi dopo la morte, sono i nostri peccati. Così, il giorno del giudizio sarà il giorno nel quale Cristo non userà misericordia per le nostre colpe, nonostante ora offra il perdono dei peccati per mezzo della fede. Ciò che doveva compiere, Gesù Cristo lo ha già fatto, ora tocca a noi accettare il valore del suo sacrificio per confermare la validità di ciò che ha compiuto. Giustamente qualcuno ha fatto notare che Gesù Cristo, venendo sulla terra, ha incontrato tre creature di cui il Padre non era il creatore: il peccato, la sofferenza e la morte. Così, la morte originariamente non era nel piano di Dio, ma nella sua sapienza, Dio ne ha fatto uno strumento di benedizione, strumento che può trasformarsi in maledizione per chi non è in regola con Dio tramite Gesù Cristo. In effetti, la domanda biblica posta qualche millennio fa è sempre valida. Se un uomo pecca contro un altro uomo, Dio lo giudica, ma se un uomo pecca contro l'Eterno, chi intercederà per lui? 1 Samuele 2:25. Un giovane chiese ad un predicatore quando doveva mettersi in regola con Dio. Il predicatore gli consigliò 5 minuti prima di morire, e il giovane se ne andò tutto contento. Ma quando sarebbe morto? Vi sono solo 2 modi per morire, perché vi sono solo 2 luoghi dove andare. Si può morire nella fede, a condizione che accettiamo questo aspetto radicale della Scrittura. Diversamente, siamo destinati a morire senza misericordia. Gennaio 2004, Ellero.